giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Caro Energia, chiudono le terme di Grado, un centinaio di utenti rimangono senza cure da ottobre, problemi anche ad Arta, stop a Lignano. Biogas e fotovoltaico contro il caro bollette, un'azienda agricola sul Carso Triestino abbatte i costi e fornisce elettricità anche alla zona circostante. La procura apre un fascicolo per omicidio colposo dopo la morte del 17enne ospite del Civiforum di Udine, caduto dalla finestra della sua stanza. Tragedia in montagna, ritrovato senza vita l'escursionista scomparso sullo Jofuarta, all'origine della tragedia il cedimento di un ponte di ghiaccio. Ultimo giorno di campagna elettorale in tutta la regione, gli appuntamenti di chiusura delle forze politiche in lizza, domani pausa di riflessione, urne aperte solo domenica dalle 7 alle 23. Fridays for Future si ritorna in piazza Trieste Gorizia, il movimento chiede impegni precisi contro il cambiamento climatico. Nascerà Palmanova, uno dei 5 centri nazionali per il recupero e la custodia delle opere d'arte, verrà ristrutturata una caserma abbandonata con i fondi del PNRR. Un Nobel Next, Aaron Chechanover, premiato a Stoccolma per la chimica nel 2004, il relatore più atteso della seconda giornata del Festival Triestino della Scienza. Le 7:19 minuti e 29 secondi di venerdì 23 settembre. Buongiorno da Eva Ciucca e Andrea Vardaneghe, che condurranno questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il cielo è da sereno a poco nuvoloso sulla costa, da poco nuvoloso a variabile sul resto della regione. Queste le temperature registrate alle 6. Trieste 12 gradi, mare poco mosso con temperatura di 22 gradi e mezzo. A Gorizia ci sono 10 gradi, a Pordenone 9 e mezzo, a Udine 8 e mezzo. In montagna mezzo 8 gradi e 5 decimi, Piancavallo 6, Forni di Sopra 5, a Sappada 2 gradi e mezzo, 0 gradi a Tarvisio, sullo Zoncolan 1 grado e mezzo positivo, 1 grado sopra lo zero anche sul Monte Lussari. A Lignano abbiamo 14 gradi, a Grado 12 e mezzo, con una temperatura del mare nelle due località di 19 gradi. Le previsioni a cura dell'ARPA: oggi sulla fascia alpina cielo poco nuvoloso con tempo migliore in quota, sul resto della regione cielo variabile con più sole lungo la costa, Prezza sulla costa. Caro Energia in primo piano ancora una volta, dunque nel nostro giornale ne fanno le spese in questo caso gli utenti delle terme di Grado, che chiuderanno il 9 ottobre per far fronte appunto al caro bollette. Situazione a rischio anche ad Arta e negli altri stabilimenti della regione, rischia la chiusura anche Monfalcone, nonostante la presenza di un pozzo artesiano che fornisce naturalmente acqua calda. Alle prese coi costi dell'energia quintuplicati, i gestori delle terme di Grado ne annunciano la chiusura dal 9 ottobre. Dai 160.000 agli 800.000 euro l'anno gli aumenti sulla bolletta del gas, fanno sapere, mentre per l'energia si è già passati da 150.000 a oltre 400.000 euro l'anno di previsione. Solo per l'utilizzo della piscina termale ad acqua riscaldata a 30 gradi per l'inverno si stima un costo lievitato a oltre 80.000 euro al mese contro i 15.000 del vecchio contratto in scadenza a dicembre. Costi insostenibili a fronte di un'utenza di un centinaio di persone al giorno, afferma con sconcerto e preoccupazione il presidente della Grado Impianti Turistici Roberto Marin, che lascerà in cassa integrazione i suoi 8 dipendenti attivi nella struttura. La chiusura era comunque nell'aria, anche per aspetti tecnici, data la concomitanza col cantiere di ristrutturazione dell'ala delle vecchie terme, ma le bollette fuori controllo hanno accelerato la decisione, precisa ancora Marin. Sempre per il caro energia, già da inizio settembre sono chiuse a tempo indeterminato anche piscine e saune dell'area wellness delle terme di Arta, garantita sino ad oggi solo l'attività di tipo sanitario e riabilitativo. Terme FVG, che ha in gestione la struttura in rete con Grado e Monfalcone, sta valutando di chiudere del tutto fino a che non si troverà una soluzione. L'energia è uno dei nostri costi di bilancio più importanti, se le bollette triplicano nessuno può reggere, afferma il presidente della società Salvatore Guarneri, che definisce la situazione drammatica e che in serata valuterà col CDA come procedere anche per le terme di Monfalcone, che tuttavia al momento sembrano essere le uniche in grado di reggere agli aumenti, grazie al pozzo artesiano di acqua calda cui attingono per alimentare le piscine, che abbatte di molto i consumi di energia. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Biogas e fotovoltaico per ridurre la bolletta è la ricetta applicata da un'azienda agricola forte di un'ottantina di mucche sul Carso Triestino, ricetta che è in grado di produrre energia sufficiente anche per il resto della zona. Un intervento, spiega il titolare, che rimane sempre sotto la spada di Damocle della burocrazia. Con 80 mucche, intelligenza e tanta buona volontà si può dire addio alla bolletta di luce e gas, anzi si può vendere il grande surplus di energia prodotta. Ci ha visto lungo questo imprenditore agricolo della provincia di Trieste che già 10 anni fa ha ricoperto il tetto dei suoi magazzini con pannelli fotovoltaici e da 4 anni usa gli scarti della sua azienda per produrre metano, così da alimentare il motore che trasforma il biogas in energia elettrica. Dario Zidaric, imprenditore agricolo. L'energia elettrica va in rete nazionale, la termica invece la sfruttiamo per tenere in temperatura il digestore e per riscaldare l'acqua sanitaria per il gasificio e per riscaldare la casa, quindi si utilizza a pieno il tutto. Economia circolare a chilometro zero. A mettere il bastone tra le ruote di questo ingranaggio perfetto è la burocrazia. Ad esempio, se uno scarto alimentare è considerato rifiuto, allora non può essere usato per produrre biogas, ma se lo stesso prodotto viene considerato sottoprodotto alimentare, allora si può. Molto dipende dall'interpretazione dei funzionari. Oltre a questo ci sono le procedure a ostacoli per ricevere i contributi europei per l'agricoltura, al punto che pur di vivere tranquilli si rinuncia proprio a fare la domanda. Cosa chiede? Più fiducia forse? Ma più buon senso, perché io capisco che c'è tanta gente che vuole fregare ed è corretto e giusto controllare, ma si può controllare venendo a vedere piuttosto che far fare un metro di carte, una pila di carte, no? Cioè, sono tanti modi semplici che possono funzionare. Prepotto, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. 7:25 minuti, siamo alla cronaca. Una nuova tragedia sulle nostre montagne si è consumata ieri mattina quando i soccorritori hanno ritrovato senza vita Stefano Vazzacco, l'alpinista padovano di 25 anni, scomparso il giorno prima nel gruppo dello Jofuart. Il giovane era partito dal rifugio Pellarini per compiere la scalata in solitaria dello spigolo da Iepeters alla Torre Madre dei Camosci. La sua auto era stata trovata parcheggiata a valle del sentiero di accesso al rifugio. L'alpinista sarebbe morto dopo aver attraversato un ponte di ghiaccio che ha ceduto. Le ricerche si erano concentrate sul nevaio sottostante la parete e lo spigolo della via di scalata, dove il gestore del rifugio aveva notato delle difformità sulla superficie. Nella cronaca anche la tragedia di Cividale. Indaga la magistratura con un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo sulla morte di un 17enne di origine kosovara caduto dalla finestra della sua stanza nella notte tra sabato e domenica. Tra gli elementi in mano degli inquirenti, le immagini del cortile interno della struttura. Nella notte tra domenica e lunedì era caduto dalla finestra della sua camera al Civiform di Cividale. Dopo 3 giorni di coma è morto a causa del grave trauma alla testa riportato il 17enne di origine kosovara ricoverato all'ospedale di Udine. Fatale il volo dal primo piano da un'altezza di circa 5 metri. Il decesso cerebrale è stato decretato nella serata di mercoledì. Cambia dunque l'ipotesi di reato su cui lavora la procura del capoluogo friulano, da lesioni colpose a omicidio colposo. Il fascicolo è a carico di ignoti. Le telecamere del cortile interno della struttura potrebbero aiutare gli inquirenti a far luce sull'esatta dinamica della caduta. Il comune di Cividale si sta adoperando per cercare di dare una mano economicamente a riportare la salma del ragazzo in patria, spesa che non può sostenere la famiglia di origine, avvertita della tragedia. Saranno sentiti dagli investigatori i dirigenti della cooperativa sociale. La struttura ospita circa 90 allievi, minori stranieri non accompagnati, affidati ai comuni e presi in carico da Civiform con progetti educativi e di alfabetizzazione, come quello che seguiva il giovane in Italia dal febbraio 2022. Chiara Franceschini, direttrice generale di Civiform. Esprimiamo il più forte cordoglio per la mancanza di questo ragazzo che è avvenuto in modo così tragico. Il nostro abbraccio va senz'altro alla famiglia, che so essere lontana, e naturalmente anche a tutta la comunità che ha ospitato questo ragazzo e che di fatto era la sua famiglia qui in Italia. Cividale del Friuli, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. È stato individuato ed arrestato l'uomo che la notte del 12 settembre aveva speronato un'auto dei carabinieri, investendo anche un militare che si era avvicinato per identificarlo e per poi fuggire ad alta velocità lungo le vie di Trieste. Si tratta di un 23enne che dovrà rispondere, tra l'altro, di tentato omicidio, sequestro di persona e lesioni personali. A notarlo era stata una pattuglia del radiomobile che lo aveva inseguito fino a bloccarlo in via San Giacomo in Monte. Il giovane, che aveva a bordo 3 ragazze, era era riuscito a ripartire speronando l'auto ed investendo un carabiniere. Nell'episodio era anche stato esploso accidentalmente un colpo di pistola da parte di un secondo militare a sua volta caduto a terra. Poco più tardi il giovane ha però perso il controllo del mezzo, finendo la corsa contro un albero e si è allontanato poi a piedi. Una delle tre persone che viaggiavano con lui aveva subito gravi lesioni. Per la sua identificazione sono state fondamentali le indicazioni delle sue passeggere che gli avevano intimato più volte di fermarsi e farle scendere. Da qui il procedimento per sequestro di persona, il giovane è stato portato nel carcere di Gorizia. Nella cronaca anche un grave incidente stradale accaduto ieri sull'altopiano triestino, sulla provinciale all'altezza della cavalcavia di Banne. Un'auto è uscita di strada attorno alle 15.30, il conducente, un uomo di 69 anni, è rimasto incastrato e incosciente all'interno. Per estrarlo dalle lamiere sono state necessarie le cesoie e i divaricatori idraulici. La persona è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche, sul posto anche la polizia municipale. Ieri altri due interventi di soccorso in montagna, il primo su un sentiero alle spalle di Moggio per recuperare un escursionista che si era perso, l'altro concluso attorno alla mezzanotte, anche in questo caso per soccorrere un escursionista che era stato sorpreso dal buio sulle montagne sopra il Piancavallo ed era rimasto con il telefono scarico. Difficile individuarlo, i tecnici del soccorso alpino hanno dovuto dividersi in squadre e battere in diversi sentieri fino al ritrovamento avvenuto appunto a notte alta. E riaprono il pomeriggio alle 15.30 la strada per Resia, che era chiusa dallo scorso luglio dopo gli incendi che avevano interessato l'area, rendendo instabili i pendii che insistono sulla ex provinciale. La strada sarà percorribile solo a senso unico alternato regolato da semafori e i lavori di messa in sicurezza proseguiranno ancora nei prossimi mesi. Chiusa la pista alternativa sul Greto del Torrente, che rimane però a disposizione in caso di nuove emergenze. Alle 7.30 minuti precisi apriamo la pagina politica, ultimo giorno di campagna elettorale, ultimi appuntamenti per partiti e schieramenti prima del silenzio imposto dalla legge a partire dalla mezzanotte di oggi. Il Centrodestra Unito chiude la campagna al Metropolis Urban Bistro in di via Mercato Vecchio a Udine a partire dalle 18.30. Doppio appuntamento per il PD, Conti e Reutz saranno in piazza della Borsa a Trieste dalle 17.30, mentre a Pordenone Favretta e Tomasello chiudono alle 18 la loggia del municipio. Il Movimento 5 Stelle ha in programma l'iniziativa di chiusura alle 19 all'Aqua Fish Lab di piazza Matteotti a Udine. L'ultimo big nazionale in arrivo è Gianluigi Paragone, capo politico di Italexit, che tra le 11.30 e le 13.30 sarà in piazza della Borsa a Trieste. Italia Sovrana e Popolare ha in programma a sua volta un'iniziativa di chiusura in piazza della Borsa Trieste alle 18. E in piazza 20 settembre a Udine, appuntamento con i candidati e le candidate della lista Vita a partire dalle 17.30. E si conclude anche la nostra serie di servizi dedicati ai protagonisti della campagna elettorale. Stamattina le proposte di Sandra Savino di Forza Italia e di Ettore Rosato di Italia Viva, che ha formato una lista unica con Azione di Calenda. Il terzo polo, l'alleanza tra Azione di Calenda, Italia Viva di Renzi, è la proposta politica nuova sulla scheda elettorale, antagonista di destra e sinistra che, dice il coordinatore nazionale di Italia Viva, Ettore Rosato, si schiacciano su antagonismi e populismi. Vuole portare a questo paese una proposta pragmatica per risolvere i problemi, per affrontare le questioni, e in questa regione ci sono tante opportunità da cogliere, riguardano lo sviluppo economico, riguardano le attenzioni che dobbiamo dare alla nostra essere regione di confine. Il terzo polo si presenta con la sua capacità di essere proposta concreta e proposta attrattiva per chi non si riconosce più nello scontro del secolo scorso. Forza Italia ha dato prova di saper governare sia a Roma che in regione. È l'unica in grado di mediare tra gli alleati Fratelli d'Italia e Lega. Così la coordinatrice regionale Sandra Savino. È quella forza che sarà in grado di equilibrare i rapporti fra gli alleati. Quindi quella forza moderata che cercherà di fare sintesi rispetto alle posizioni che talvolta possono anche essere diverse fra tutti gli alleati. Massimo l'impegno sul caro energia. È un tema che sentono sia i cittadini che le imprese. Quindi questo è un tema che dovrà essere assolutamente il punto numero uno all'ordine del giorno del prossimo governo. Infine, l'appello al voto. Votare è un diritto ed è necessario anche perché il cittadino che ha votato ha anche diritto di parlare, ha anche diritto di criticare. Francesca Vigori, TGR Friuli Venezia Giulia. Un invito ad esercitare il diritto di voto arriva anche da Franco Corleone, il garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Udine, ed è un invito rivolto ai detenuti del carcere di Via Spalato. Il diritto di voto per un cittadino non libero, spiega Corleone, rappresenta la rivendicazione di far parte della società e di non esserne cancellato. Già 16 detenuti hanno completato tutti gli adempimenti per votare. In tema di elezioni segnaliamo anche il convegno promosso a Palazzo Garzolini dell'Università di Udine dal Coordinamento Regionale Donne Ampi e dall'Associazione Se Non Ora Quando, titolo Un viaggio nella storia del voto, dalla parità dei diritti alla parità della rappresentanza. I lavori cominciano alle 15. E Fridays for Future torna in piazza oggi a Trieste e Gorizia per lo sciopero globale per il clima. A Trieste il corteo parte alle 9 da piazza Oberdan, nel pomeriggio invece ci sarà un presidio alle 16 in piazza Vittorio Veneto. A Gorizia si parte dalle 10.30 dal Parco della Rimembranza con un corteo che attraverserà le vie della città per concludersi in piazza Sant'Antonio, dove gli attivisti metteranno a disposizione il microfono a chi vorrà esprimere la propria opinione. Le loro richieste si riassumono in tre punti principali: azzerare le emissioni, i comuni e la regione devono fare tutto il possibile per contenere l'aumento della temperatura globale sotto 1,5 gradi, scrivono gli attivisti, che vogliono che queste istanze abbiano le priorità nel consiglio regionale e nei vari consigli comunali. Terza e ultima istanza, la riconversione della centrale di Monfalcone da fonti rinnovabili e non a gas. Il terzo punto comprende anche l'abbandono dell'incentivo all'utilizzo del gas. 7:34 minuti e 35 secondi, temi della cultura. Una caserma abbandonata di Palmanova diventerà un centro per conservare e recuperare le opere d'arte, uno dei 5 di questo tipo progettati a livello nazionale. La ristrutturazione è finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e attende l'ultimo via libera formale da Bruxelles. Una fortezza dove custodire e recuperare le opere d'arte italiane in caso di terremoti, inondazioni, frane. Palmanova, secondo l'indicazione del Ministero della Cultura, sarà uno dei 5 siti nazionali, l'unico nel nord-est, all'interno del progetto Recovery Art. Succederà grazie al finanziamento da 20 milioni di euro del PNRR per riqualificare l'ex caserma Montezemolo, un'area da 50.000 metri quadrati. Nei 6.600 coperti potranno essere realizzate zone di accoglienza dei beni artistici e ci sarà spazio per depositi, laboratori di messa in sicurezza e di restauro, uffici, una zona per esposizioni temporanee, una foresteria e aule didattiche. Il progetto, che ha già ottenuto il via libera dalla cabina di regia del PNRR, è ora al vaglio della Commissione europea per l'ultimo passaggio formale. Sarà l'occasione per intervenire su un'area, ora di proprietà statale, abbandonata da molti anni. Un'altra tappa nel percorso iniziato nel 2011 con la pulizia dei bastioni, poi il finanziamento da 10 milioni del 2016 e il riconoscimento UNESCO l'anno dopo. Nel 2020 l'ex caserma napoleonica Gamerra, interna al complesso della Montezemolo, era stata affidata alla soprintendenza per ospitare reperti archeologici e per l'allestimento di opere d'arte. Il progetto permetterà anche il recupero di aree verdi da destinare a parco urbano, parcheggi, residenze e servizi, dando così impulso alla crescita della città stellata. Palmanova, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Seconda giornata di Next, la rassegna triestina dedicata alla scienza. Il nome più noto tra gli ospiti di oggi è quello di Aaron Chekhanover, premio Nobel per la chimica nel 2004, atteso relatore in un evento sui problemi etici in medicina che comincia all'auditorium del Molo IV alle 11. Tra gli appuntamenti di oggi anche quello ospitato dal Teatro Miela sull'energia pulita per le attività marittime, che alle 15 vedrà protagonista il presidente dell'autorità portuale Zeno D'Agostino. Tra i temi della mattinata anche una riflessione su come gli interventi pubblici possono migliorare la salute e un confronto su intelligenza umana e artificiale e sui nuovi paradigmi per la riabilitazione dopo gli incidenti. Nella giornata di apertura è stato denso a sua volta il programma di eventi, compreso un seminario dedicato al rapporto fra alimentazione e cancro. Energia, sostenibilità, salute, cambiamento climatico, ma anche i progressi della ricerca oncologica, la space economy, la tecnologia quantistica. Filo rosso, la discussione sui limiti della scienza. Non solo dunque le nuove sfide della ricerca, Trieste Next, inaugurata come di consueto dalle attività per le scuole all'interno del villaggio Trieste Città della Conoscenza in Piazza Unità. Esperimenti, laboratori e dimostrazioni che coinvolgono bambini e ragazzi. Qualche esempio, l'orecchio bionico dell'Ateneo Giuliano. L'orecchio bionico è un impianto cocleare, è un sistema che permette alle persone che hanno una sordità importante di riacquistare le capacità di percepire i suoni e interagire con le persone che prima aveva perso a causa proprio della patologia dell'orecchio. Novità di quest'anno, la mostra organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale sui terremoti d'Italia. Un percorso espositivo che rimarrà aperto al Centro Congressi in Porto Vecchio fino alla Barcolana, significativo in una regione che conserva vivo il ricordo del sisma del 76 e che da allora ha intessuto una fitta rete di azioni e sinergie per affrontare il rischio sismico e le sue conseguenze. Giovanni Costa, sismologo dell'Università di Trieste. Si fanno vedere anche certi strumenti che servono per limitare i danni sugli edifici, dei edifici come gli isolatori sismici. C'è una parte che, dove ci sono proprio i simulatori sismici che servono da un lato per vedere quali possono essere gli effetti sulle costruzioni, sugli edifici, e un altro simulatore sismico che serve proprio per far provare al pubblico cosa si prova durante un terremoto. Trieste, Elisabetta Zaccolo, TGR, Friuli Venezia Giulia. Giornata densa di appuntamenti culturali. Il cardinale Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei Vescovi, e Don Rossano Sala, consultore della segreteria del Sinodo, apriranno nel Duomo di Pordenone la rassegna Ascoltare, Leggere, Crescere, che prevede una serie di incontri con l'editoria religiosa in programma fino all'8 ottobre in diverse località del Friuli Venezia Giulia. Domani mattina la rassegna fa tappa a Trieste per parlare di rotta balcanica con il portavoce di UNHCR di Castero per lo sviluppo umano integrale, sezione migranti e rifugiati. Dopo la breve pausa elettorale, lunedì 26 settembre sarà la volta della prima delle presentazioni librarie nelle parrocchie del Pordenonese con le origini della Domenica Cristiana. Memoria delle regioni contese dopo la Grande Guerra è il convegno organizzato nell'ambito della mostra Dopo la Grande Guerra, una nuova Europa 1918-1923, inaugurata ieri sera in Largo Panfili, promossa dalla rete europea ERN in collaborazione con l'Unione Europea e con un team internazionale di studiosi e di storici. Il convegno comincia al Circolo della Stampa alle 17 a Trieste, mentre la mostra rimarrà visitabile fino all'11 ottobre. Anteprima oltre confine a Nova Gorizia per la 17esima edizione del Festival Wunderjammer, una rassegna che spazia tra le epoche, tra brani di periodo e generi musicali diversi, fatti rivivere su copie di strumenti del tempo. Il tema scelto è Algoritmi musicali e introduce una riflessione sulla fascinazione dell'elemento matematico applicato alla musica, con 1 o 2 giorni di studi in collaborazione con il Centro di Fisica Teorica e con il Sincrotrone. In programma 14 appuntamenti dal 3 ottobre all'11 novembre, dislocati in diverse aree di Trieste, al Tartini, al Miela, al Sartorio. Anteprima, come detto, oltre confine, San Pietro del Carso alle 18, con un concerto di musiche rinascimentali per chitarra affidato a Federico Rossignoli. Alle 20, altro concerto con Paola Erdas e con la musica per clavicembolo napoletana del 500. Il 23 settembre è la giornata europea del cibo biologico, che in regione verrà celebrata con 3 giorni di eventi dedicati alle produzioni bio, promossi dalle aziende e dai produttori associati all'AIAB FVG. L'elenco completo delle aziende che aderiscono agli eventi è sul sito dell'AIAB. Noi abbiamo intervistato la presidente Cristina Micheloni. Oggi, appunto, giornata del biologico, abbiamo 9+9 eventi, non solo oggi ma anche nei prossimi 2 giorni, quindi per tutto il fine settimana. Eventi nelle aziende agricole di trasformazione, dei laboratori, degli incontri di approfondimento, dei laboratori anche per bambini o delle degustazioni, quindi un modo per conoscere che cos'è il biologico, anche non solo cos'è il prodotto biologico, ma che cosa c'è dietro, cosa vuol dire fare agricoltura biologica e i suoi impatti sull'ambiente, sul benessere animale, sulle persone, parliamo anche di agricoltura sociale. E altri 9 eventi invece dedicati ai più gourmand, a quelli che vogliono assaggiare il biologico, in ristoranti, gelaterie, agriturismi, enoteche, dove si assaggeranno appunto i prodotti non solo biologici. Una cosa importante è che sono biologici e regionali. L'elenco di tutti i partecipanti, delle aziende che partecipano, sono sul vostro sito dell'agricoltura biologica del Friuli Venezia Giulia. Quanto vale il biologico in regione? Dovendo tirare qualche numero, noi abbiamo circa 900 operatori certificati in regione. Operatori vuol dire sia agricoltori che allevatori, che trasformatori, che rivenditori, tutti quelli che sono certificati secondo il sistema europeo del biologico. Dare un valore economico è abbastanza complesso, perché questo biologico va in diversi mercati, dalla vendita diretta ai mercati internazionali. Abbiamo anche delle realtà che vendono fuori dall'Europa. La cosa che ci rincuora è vedere che anche gli agricoltori bioregionali sono tutti un po' più giovani degli agricoltori convenzionali, tutti con una buona cultura, un buon livello culturale, e hanno anche delle aziende agricole un po' più grandi della media dei convenzionali. Nada Cioc, TGR Friuli Venezia Giulia. Siamo allo sport, cominciamo dal ciclismo. Ai mondiali di Wollongong in Australia è in corso la prova in linea under 23 maschile. Una delle punte della formazione azzurra è Nicolò Buratti, portacolori del Cycling Team Friuli, che quest'anno ha vinto il prestigioso Gran Premio di Capodarco. Il corridore friulano si trova nel gruppone che da decine di chilometri è all'inseguimento di 6 fuggitivi. Finora Buratti è rimasto al coperto in attesa della fase decisiva della corsa, che si può seguire in diretta per televisione su Rai Sport. Il basket, prima semifinale per Udine nella Supercoppa di A2. Gli uomini di Bonicioli sono in Romagna. Si allenano stamattina a Ravenna e stasera alle 18.45 a Forlì affrontano San Severo. Dall'altra parte del tabellone ci sono Cantù e Cremona. L'eventuale finale si gioca sabato alle 20.45, sempre a Forlì. E per la vela parte davanti a Piazza Unità a Trieste alle 22.30 la 61esima edizione della più antica regata offshore dell'Adriatico, la Trieste San Giovanni in Pelago Trieste, organizzata dallo Yacht Club Adria. Con la regata attraversa le acque di Slovenia e Croazia e vale come prova d'altura non scartabile per la flotta ORC. Al via anche la flotta Open, confermata la presenza del detentore del record di percorrenza, Furio Benussi, dello Yacht Club Adriaco. Le 7.44 minuti, apriamo la rassegna stampa. La piscina terapeutica in primo piano del piccolo di Trieste, è affidato il piano per la demolizione dell'acqua marina, dunque il titolo principale. Il lettore ottico debutta sui bus, il tema della fotonotizia posizionata in taglio alto, in circolazione da ieri i primi mezzi dotati del nuovo sistema elettronico che consente di acquistare i ticket a bordo e di obliterarli senza timbri. I titoli di cronaca in prima pagina: investì un carabiniere, poi scappò, 23enne in manette, e poi ancora sulle luminarie confermate per le feste natalizie e i fuochi a Capodanno. In prima pagina anche la Grande Guerra e l'Europa del 1918, una mostra evento inaugurata ieri sera, ne abbiamo parlato, e la pagina della cultura nelle pagine interne: senza il direttore unico i musei di Trieste sono destinati a perdere ogni ruolo centrale. Vaccini contro l'influenza, acquistate 290.000 dosi, questo è il titolo di apertura del Messaggero Veneto, edizione del Friuli. La campagna di prevenzione partirà dal 12 ottobre, protezione consigliata agli over 60. Fotonotizia centrale sulla vicenda del ragazzo morto al Civi, forme in prima c'è anche la tragedia dello Yacht Fuart con la morte dell'alpinista padovano ritrovato senza vita ieri mattina. In basso il richiamo all'articolo sui conti del comune di Udine, che spenderà 23 milioni in più per i rincari di materie prime ed energie, articolo che apre le pagine di cronaca locale. Il piccolo di Gorizia e Monfalcone, rinasce l'ex Eton a Monfalcone, 50 nuovi assunti, il titolo principale, mentre la fotonotizia in taglio alto troviamo la piscina terapeutica con il tema delle bollette, chiudono le terme a Grado. La cronaca, alloggi ateri inaugurati in via Ascoli a Gorizia, investito 1 milione, e poi Ronchi piange Petrini, l'imprenditore fondò l'attività dei vivai. E sempre in prima pagina anche l'inaugurazione della quarta edizione di Promo Mare a Monfalcone, distretto regionale nautico. Promo Mare fa da apripista. Anche l'edizione pordenonese del Messaggero Veneto apre con la campagna vaccinale, mentre la fotonotizia è dedicata ai ribelli della differenziata che abbandonano i rifiuti, una forma di resistenza al cambiamento necessario della raccolta porta a porta, la definisce il giornale. Entrambe le edizioni danno spazio in prima anche alle richieste del PM nel processo per il crack della Banca Popolare di Vicenza. Per Gianni Zonin sono stati chiesti 5 anni e 10 mesi di carcere. Spazio in prima anche all'indagine sulla cosiddetta Banda del Piccone, un gruppo di 3 cittadini rumeni arrestati l'8 settembre per 7 furti avvenuti in provincia, ma che potrebbero aver colpito anche in altre zone d'Italia. L'articolo che apre le pagine di cronaca locale fa invece il punto sugli asili nido a Pordenone e provincia. Nel capoluogo tornano le liste di attesa. Serve una nuova scuola. Il Gazzettino apre le pagine pordenonesi con la carenza di manodopera specializzata di cui abbiamo parlato nelle edizioni di ieri. Fotonotizia dedicata ad Elisa Altamura. Si tratta di una studentessa di medicina che vive a Roveredo in Piano e che, riferisce il giornale, è diventata una star di TikTok. Ma si parla anche di economia con l'incubo della cassa integrazione all'Electrolux di Porcia e di cronaca con un tentato raggiro ai danni di un 80enne a Porcia sventato dal figlio della donna. La tecnica usata era quella del finto incidente. L'autrice della truffa è stata arrestata dai carabinieri. L'edizione di Udine del Gazzettino è invece la fotonotizia dedicata alla tragedia sullo Yoff Ward e dedica spazio in prima alla morte del ragazzo kosovaro a Cividale. Si parla anche di sport. Il quotidiano veneziano guarda al mercato e riferisce che Becao sarà il prossimo gioiello in vendita dell'Udinese. 7.48, c'è ancora il tempo per segnalare qualche appuntamento. Quanto è cambiata la bora nell'arco dei decenni e quanto è cambiata la nostra percezione di questo evento? È il filo conduttore dell'incontro negli spazi dell'ex pescheria centrale di Trieste. Sarà l'occasione per ascoltare le testimonianze della scienza e i ricordi dei triestini, con pillole video, curiosità, interventi eolici a sorpresa. Intervengono Renato Colucci, presidente della Società Meteorologica Alpino Adriatica e ricercatore del CNR, il meteorologo Sergio Nordio, Paola Dannegro, che è la direttrice dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, e Francesco Bonsetti, che è responsabile della programmazione strategica dell'ITIS, insieme a Rino Lombardi, che presiede l'Associazione del Museo della Bora. L'incontro comincia alle 18.30. La scuola in ospedale è un approccio didattico al quale sono costretti i piccoli pazienti lungodegenti. L'Università di Trieste svolge un master di secondo livello e un corso di aggiornamento in merito che verranno presentati nell'aula magna di via Tigor 22 alle 18. Nel corso del seminario verrà data voce a docenti, studenti e studentesse diplomati e a genitori e a bambine e a bambini della scuola in ospedale. A Pordenone, nel parco 4 novembre alle 18, si accendono i fornelli dei 20 chef di strada che partecipano alla tappa di International Street Food, la più importante manifestazione di cibo di strada esistente in Italia. I mezzi con le cucine propongono piatti tipici della tradizione internazionale e regionale, dalla paella valenciana agli arrosticini. Rimarranno a Pordenone fino a domenica per l'ora di pranzo, mentre la settimana prossima saranno a Gorizia per gusti di frontiera, per poi proseguire verso altre 100 destinazioni in tutta Italia. In occasione delle giornate europee del patrimonio e della giornata europea delle lingue, la Società Filologica Friulana e la Biblioteca Statale Isontina, unitamente al Comune di Gorizia, organizzano a Casa Ascoli alle 18 un incontro per ricordare la figura di Otello Silvestri, storico direttore della Biblioteca Statale Isontina della rivista Studi Goriziani. Al Museo dei Bambini di Trieste, in via Weiss, si inaugura la mostra di Nane Zavagno, La natura mi ha trascinato. Appuntamento alle 18, la mostra sarà visitabile su richiesta fino al 23 ottobre. Il miglioramento della vulnerabilità sismica degli immobili vincolati è il titolo del convegno che si tiene a Udine a Palazzo Orgnani alle 9.30, promosso da Associazione di More Storiche Italiane con la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, il Comune di Udine e ANCE. Questa edizione del giornale Radio Regionale è stata redatta da Nada Cioc e da Eva Ciucchi e Andrea Vardanega, che l'hanno anche condotta in studio, alla guida della parte tecnica Federico Comare ed Eugenio Giuffrida. In redazione ha collaborato Manuel Bussani. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11.10 circa il consueto appuntamento con Vue Ofevelindi, che parlerà della 51esima mostra regionale della mela di Pantianico, una mostra che sarà anche al centro dell'edizione di Un tranquillo weekend da paura estate. A seguire, speciale Trieste Next 2022 in diretta da Piazza dell'Unità d'Italia a Trieste, condotto da Simona Regina per la regia di Federica Ovan. Saranno affrontati i temi relativi all'economia circolare, al clima e all'open science, con un focus sugli eventi organizzati per gli studenti. Numerosi gli ospiti, tra cui Caterina Petrillo, la presidente di Area Science, Science Park e Aura Bernardi, Project Manager dell'Immaginario Scientifico. L'informazione dal territorio prosegue anche sul nostro sito rainews.it, TGR FVG e sui nostri profili social TGR Rai FVG. L'appuntamento radiofonico è per le 12.30. Grazie per la cortese attenzione. Buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.